avere, del tempo da buttare, né soldi né parole, ma una vita da inventare. Dormire invece di studiare, il sabato a sballare, verso l'alba andare al mare, e aspettare che il bello deve ancora venire. Il mondo è gomma da masticare, ma basta volere, sì volere. All'infinito andare, istinto naturale, rischiare o cancellare, via dal gioco e non salvare. Tradire gli amici per amare, e amaramente fare anche l'opposto se va male. Respirare se basta questo per non morire, mai vista cosa più elementare, ma basta volere sin volere. All'infinito andare, per rabbia nata, vestirsi per uscire, ricordarsi di mangiare, all'infinito fare, per non desiderare, per non dimenticare, per non crescere e sparire, di restare e complicare, dare, prendere e lasciare, navigare ed affondare, bere e leggere e baciare, all'infinito andare, d'istinto naturale, rischiare o cancellare, via dal gioco e non salvare. All'infinito fare, sognare.